se mi si consente vorrei fare due brevissime premesse. La prima è quella che non mi riferirò citando espressamente testi storiografici e documenti direttamente conosciuti negli archivi italiani e tedeschi, per non appesantire l'esposizione con queste citazioni, se non in alcuni casi, due o tre, e riservando eventualmente ad eventuali richieste nel caso in cui fossero presentate o nel corso della discussione. La seconda premessa, anche questa rapidissima, è che osserverò il tema da un puro e stretto punto di vista della politica estera della Germania 1918 in poi, e da uno stretto punto di vista giuridico del diritto pubblico interno e del diritto internazionale, lasciando da parte tutti quegli aspetti che sono stati qui anche un momento fa ricordati, cioè dell'emozione che ancora, vero, a volte la trattazione di questi temi suscita da una parte e anche dall'altra. Ecco, e allora vorrei incominciare col dire che mi sembra deviante e riduttivo attribuire alla istituzione e allo speciale ordinamento della Operationszone Alpenvorland e analogamente a quella dell'Adriatisches Küstenland un significato solo militare o di sola importanza regionale. Certamente i fattori locali, come si vedrà, ebbero un ruolo determinante nel come si attuò l'occupazione tedesca in queste zone, nel dettaglio delle misure assunte dall'occupante militare e dall'amministrazione civile venuta al suo seguito. Ma l'istituzione della zona sta nel quadro della difficile alleanza tra Hitler e Mussolini, per usare l'indovinato titolo dato alla traduzione italiana del volume dell'amico Jens Petersen. I due uomini, capi dei due partiti, il fascista e il nazionalsocialista, ma agendo anche nella legittimità dei loro poteri in qualità di capi di governo dei rispettivi stati, avevano tentato di sottendere e superare recenti e meno recenti controversie tra i loro paesi ai fini di rendere attuabile la saldatura e l'alleanza dei due regimi, in funzione di più ampi comuni fini ideologici e di più ampi progetti di politica interna ed internazionale. A questo scopo, e in riguardo a territori già appartenenti all'Austria ex asburgica, ceduti nel 1919 alla sovranità del Regno d'Italia, avevano escogitato anche soluzioni settoriali, come ad esempio quella ben nota e clamorosa delle opzioni e del trasferimento nel Terzo Reich delle genti di lingua e nazionalità tedesca, lasciando inalterato l'assetto territoriale dei due paesi, una modificazione del quale avrebbe cozzato contro l'opinione pubblica generale in Italia, mentre nella Germania, divenuta dal 38 erede dell'Austria, restava un'aspirazione non dimessa, nonostante le formali dichiarazioni in contrario pronunciate dal Führer. Sono cose note e già esplorate abbondantemente dalla storiografia, sulle quali pertanto non ci soffermeremo oltre, se non per... qui domando scusa, ma devo proprio... è la giovinezza, sai, schiera. Grazie. Grazie molto. Non ci soffermeremo oltre se non per accennare a qualche precedente che testimonia quanto interesse la Germania, fin da quando era strutturata come confederazione, come Bund, come secondo e poi come terzo Reich, quanto la Germania ponesse ai territori costituiti il 10 settembre 1943 nelle due zone d'operazioni dell'Alpenvorland e dell'Adriatisches Küstenland, un interesse che non aveva per oggetto soltanto le popolazioni di lingua tedesca abitanti parte di quei territori, ma i territori in se stessi in quanto spazio vitale per l'economia e la potenza germanica. E basti appunto ricordare i pronunciamenti che vengono da lontano, dalla dieta di Francoforte del 48, riguardo alle allora avviate aspirazioni italiane su Trento e Trieste, e la perdurante opposizione tedesca, specie bavarese, all'irredentismo trentino e triestino di fine 800 e inizi 900. Con la fine della Prima Guerra Mondiale e con la dissoluzione dell'Impero Asburgico, a quelle motivazioni provenienti da una politica di potenza condotta dalla Germania sino al crollo del Secondo Reich, della quale resta non dubbia testimonianza nelle pagine della Mitteleuropa di Friedrich Naumann del 1915, a quelle motivazioni vennero ad aggiungersene altre. Cadute l'impero degli Asburgo e ridotta l'Austria ad uno staterello di poco più di 6 milioni di abitanti, la Germania, pur soccombente anch'essa nella Prima Guerra Mondiale, si sentì investita della responsabilità morale e politica e della conseguente missione di porsi come centro di riferimento delle genti tedesche rimaste inglobate in stati eteronazionali a seguito del nuovo assetto territoriale europeo, e si fece carico di assumersene la tutela sia in via politica generale sia in via diplomatica. Ciò fu stabilito espressamente, lo troviamo nei primi atti del 19, nei primi mesi del 19, nell'aprile, ciò fu stabilito espressamente e dato come indirizzo alla delegazione tedesca per le negoziazioni di pace dal gabinetto Scheidemann. Anche se in via diplomatica la Germania di Weimar non ottenne successi, la questione del Deutschtum in Ausland rimase e fu tenuta viva prima e dopo l'avvento di Hitler al potere, nell'opinione pubblica, in circoli ed associazioni culturali e politiche e all'interno dello stesso partito nazionalsocialista, dove la posizione del Führer, rinunciataria alle rivendicazioni sul Sudtirolo e su altre minoranze tedesche in Italia, manifestata come noto dal 1926 nella brochure di Südtirol Frage, la posizione di Hitler per rendere possibile l'avvicinamento e l'alleanza col fascismo trovava all'interno del Partito Nazionalsocialista forti resistenze ed opposizioni, sostenute peraltro all'esterno del partito dalle destre nazionalistiche. Klaus Peter Höppgen, nella nota opera, ha ampiamente illustrato e documentato anche i risvolti di queste questioni. Il dibattito interno al Partito Nazionalista sulle rivendicazioni dei Deutsche Sprachgebiete in Italia fu permanente e acceso, e il Führer a volte rimase isolato. Vi presero parte organi di stampa, periodici ufficiali ed ufficiosi, segnando nel tempo posizioni diverse via via che si sviluppava l'avvicinamento dei due regimi di Roma e di Berlino sino alla saldatura della loro alleanza. Tra le pubblicazioni ufficiose vale la pena di ricordare come una delle più significative quanto veniva registrato negli opuscoli che avevano un titolo emotivo ed eccitante: Was jeder Deutsche von Grenz und Auslanddeutschtum wissen muss. In un'edizione del 1934, una schematica cartina geografica dei territori di lingua tedesca da recuperare al Grande Reich comprende l'Alto Adige, qualche lembo più a sud, forse coincidente con le isole tedesche di lingua tedesca nel Trentino, e la Val Canale, il Tarvisiano, e il prospetto dei territori tedeschi in Italia, posto a fianco della cartina, elenca il Sud Tirolo, la Val Canale, l'Istria, Gorizia e Gradisca, Trieste, tutte le province o parte di esse che saranno poi unificate dopo l'8 settembre del 43 nelle due zone d'operazione delle Prealpi e dell'Adriatic Swissenland. Nell'edizione del 1938, a Brindisi di Palazzo Venezia pronunciato, la cartina restò immutata, ma dal prospetto furono depennati Sud Tirolo e Canaltal. Più cauto anche prima del 1938 fu sempre il periodico centrale politico e culturale del Partito Nazional Socialista, i nazionalisti Semona Sefte, che nelle sue 15 annate uscì dal 30 al 44 editore Adolf Hitler, redattore Alfred Rosenberg, menzionò il Sud Tirolo solo due volte, e cioè quando fu tolto dalla piazza centrale di Bolzano il monumento a Walter von der Vogelweide e quando ad Anschluss avvenuto gli sembrò di vedere alleggiare nella Heldenplatz di Vienna per solennizzare l'Anschluss dell'Austria al grande Reich lo spirito del poeta tedesco sudtirolese. Maggior rilievo, maggior silenzio ancora mantenne sugli altri Deutsche Sprachgebiete in Italia. Si registrano così due indirizzi opposti su queste questioni. Da una parte, opinione pubblica generale, i partiti della destra tedesca e consistenti frazioni dello stesso Partito Nazionalsocialista, mossi non solo da interessi nazionali, ma anche e forse più da suggestioni e da spinte verso una politica di potenza economica e militare, guardano ai territori posti a sud della cerchia centrale ed orientale alpina, in special modo a Trieste, che apre l'accesso al mare come a un Lebensraum, ad uno spazio vitale per la Germania. È un indirizzo continuativo, ripeto, che va da Francoforte, dalle tesi di Francoforte del 48 a quelle del Naumann del 15 a quelle di Joseph Goebbels del dopo 8 settembre 1943, tre momenti di guerra in cui quei territori sono sempre visti come spazi da difendere e conservare o come spazi da riconquistare. Di contro stavano le tesi di Hitler, prima personali, poi imposte e subite dall'opinione pubblica tedesca e dalla dirigenza nazionalsocialista, le tesi ben note secondo le quali la questione delle minoranze tedesche in Italia doveva essere trattata in modo diverso rispetto alle altre minoranze tedesche all'estero e avendo riguardo ai più ampi interessi del Reich e in funzione dell'avvicinamento e dell'alleanza del regime fascista al nazionalsocialismo. Le ripetute e insistenti voci di stampa dei Vereine nazionali che continuano la loro opera culturale anche durante il periodo di potere di Hitler, le ripetute voci della pubblica opinione sulla questione altoatesina, che era la più eclatante, ma non la sola, la più eclatante perché nel Sud Tirolo stava la minoranza tedesca più numerosa e più compatta in un sol territorio, queste voci erano elementi di disturbo nei rapporti tra nazionalsocialismo e fascismo e perciò, in attesa di una qualsiasi soluzione del problema, la parola d'ordine che veniva dalla dirigenza del partito era quella del silenzio, di parole des Schweigens. Non sempre esso era però rispettato, né prima né dopo la salita al potere di Hitler, e non lo era specialmente in coincidenza con i momenti di grande rilevanza politica, quali ad esempio l'Anschluss e la crisi del regime fascista del 25 luglio del 43. Da quella data diveniva difficile, se non impossibile, mantenere il silenzio. Lo rompe già lo stesso bollettino ufficiale riservato del Partito Nazional Socialista che il 16 agosto, riferendosi ad una pubblicazione dell'Accademia d'Italia e alla distinzione che in questa nota veniva fatta tra allogeni e alloglotti, riprende l'argomento delle minoranze tedesche in Italia. E più ancora questo silenzio è rotto dalle voci comuni. Abbiamo visto presso l'archivio del Ministero degli Esteri a Roma i rapporti consolari italiani da Monaco e da Innsbruck, dai quali si conosce che già nella primavera del 1943 reparti militari tedeschi che venivano avviati in Italia cantavano note canzoni irredentistiche di un irredentismo territoriale, non soltanto culturale, e che ai cittadini tedeschi che ricevevano un passaporto per l'Italia si raccomandava kein Wort über Südtirol, e che alcuni di essi sussurravano di rimando sì sì, ma in ogni caso presto o tardi tornerà a noi. Tra il 23 luglio e l'8 settembre del 1943, caduto il regime fascista e pericolante ormai sul piano militare lo stesso Stato italiano, i segnali di una ripresa e di un disegno di rivendicazioni territoriali di zone abitate da minoranze tedesche in Italia si erano venuti intensificando, come è stato ampiamente documentato da tutti gli storici che si sono occupati di questo periodo e da noi stessi in alcuni saggi che abbiamo pubblicato. Non ci soffermiamo perciò su ciò e poniamo invece la domanda se e per quanto tempo le tesi di Hitler stesso, al di là del non voler essere disturbato da tali questioni nei suoi progetti di alleanza col fascismo, se queste tesi fossero comprensive di una reale rinuncia anche nei confronti dell'Italia a riunificare ed annettere al Grande Reich i territori linguisticamente tedeschi o storicamente già appartenenti all'Austria, anche se mistilingue. Esplicitamente e solennemente lo furono, cose note, il 7 maggio del 38, quando nel famoso brindisi di Palazzo Venezia Hitler lasciò come suo testamento politico di considerare, cito, intangibile per sempre la frontiera delle Alpi. Era una soluzione politica motivata e assunta nel quadro di quella determinata situazione politica esistente. Una soluzione condizionata dall'impegno politico connesso con un già realizzato accordo tra fascismo e nazionalsocialismo, saldatosi negli eventi dell'Anschluss e in vista di un formale patto di alleanza, il patto d'acciaio, che avrebbe stretto i due regimi il 22 maggio del 39. Quando però quella situazione e quei rapporti di forza tra fascismo e nazionalsocialismo, la situazione decade, quando decade e quando mutarono sostanzialmente i rapporti di forza, vennero a cessare anche le ragioni della grande rinuncia preannunciata sin dal 1926. Il 25 luglio 1943 aveva tolto di mezzo uno dei due fattori, il fascismo, uno dei due fattori tra i quali era stato stretto quel patto, una condizione del quale era stato il riconoscimento della intangibilità delle frontiere delle Alpi. E l'8 settembre aveva avuto come conseguenza anche quella della scissione territoriale dello Stato italiano e la riduzione del suo governo legittimo agli estremi lembi meridionali della penisola, essendosi nella maggior parte di essa costituito altro governo che esercitava il suo potere di impero solo col supporto determinante delle armate tedesche di occupazione. Sulla natura giuridica di diritto interno e diritto internazionale della Repubblica Sociale Italiana e sui suoi rapporti con il Reich, la memorialistica e il dibattito in sede storiografica e in sede giurisdizionale dal 1945 ad oggi sono stati intensissimi. La bibliografia ricchissima, alla quale recentemente da parte italiana si è aggiunta ancora l'ampio e dettagliato volume di Mario Viganò, finito di stampare nel settembre dello scorso anno. Ma tra le tesi estreme ed opposte, una delle quali sostiene la piena perfezione giuridica nel diritto interno e nel diritto internazionale della Repubblica Sociale Italiana, avendo essa oltre al territorio e alla popolazione, anche il terzo elemento perché uno Stato esista, e cioè la sovranità, e l'altra tesi che ne nega la perfezione giuridica, arrogando che la sovranità era sì asserita e dichiarata, ma non esercitata di fatto, e l'esercizio di fatto è una condizione necessaria. All'una e all'altra tesi, alla prima e alla seconda, è comune l'ammissione che nei territori occupati dalle armate tedesche il potere d'impero della Repubblica Sociale Italiana non era suo proprio originario ed autonomo, ma esercitato attraverso la mediazione del Reich e da esso limitato. Fu un'illusione quella di Mussolini, del governo della Repubblica Sociale Italiana e del fascismo repubblicano, di poter rappresentare la continuità dello Stato italiano, al quale era stata rilasciata il 7 maggio del 38 da parte di Hitler la dichiarazione di intangibilità delle frontiere settentrionali. La situazione di fatto e di diritto registrava dal 25 luglio e ancor più dall'8 settembre un terzo e nuovo termine, la Repubblica Sociale Italiana, che il Reich, per opportunità militari della guerra in corso, aveva tutto l'interesse a sostenere, ma che era pur sempre un termine nuovo, un elemento nuovo, col quale il Reich non aveva formalmente pattuito alcunché, rimettendo la definizione dei rapporti anche territoriali a fine guerra. Che in questa nuova situazione il Reich si ritenesse libero da impegni precedentemente presi con uno Stato, il Regno d'Italia, che nell'ottica, ma non solo nell'ottica di Berlino, anche nella realtà, era da collocarsi ormai tra i nemici, non più tra gli alleati, che per cogenti necessità militari il Reich non avesse interesse a presentare d'un subito rivendicazioni territoriali nei confronti della Repubblica Sociale Italiana, che infine, per opportunità politiche evidenti, il Reich dovesse avere riguardo a non deprimere ulteriormente il fascismo, il che sarebbe certamente avvenuto in misura maggiore di quanto già avveniva, se fosse stato esplicito che il Reich intendeva sottrarre dei territori al futuro Stato italiano, quello che sarebbe stato dopo la vittoria del Reich. Tutto ciò mi pare estremamente comprensibile e non desta, a mio avviso, meraviglia alcuna. I rapporti tra Germania e Italia, l'Italia della Repubblica Sociale Italiana, oscillarono realmente tra il 1943 e il 1945, come indica il tema di questo convegno, tra una alleanza sempre più evanescente, un'occupazione di fatto e, per quanto riguarda le due zone d'operazione, dell'Alpenfordan e del litorale adriatico, la predisposizione di misure idonee ad una successiva annessione al Reich, che nel settembre del 43, quando veniva emanata l'ordinanza del Führer, però, riguardante l'assetto del territorio italiano, del Reich nel settembre del 43 contava ancora su una conclusione vittoriosa della guerra. È la stessa ordinanza del Führer del 10 settembre 43, due giorni dopo l'annuncio dell'armistizio tra il Regno d'Italia e le potenze alleate, che introduce nell'Italia fascista, così è denominato il territorio nell'ordinanza, una netta distinzione tra due parti. L'una indicata come territorio occupato, l'altra come zone di operazione, che nell'ordinanza stessa, da un punto di vista militare, avrebbero dovuto essere in un numero maggiore di due. Vi si elenca infatti la zona pelinica, i territori a sud della medesima, le regioni costiere, ma che in effetti restarono soltanto le due note. Rileviamo qui subito, per inciso, ma con sostanziale sottolineatura, che già l'uso del termine territorio occupato per indicare quello della Repubblica Sociale Italiana rivela l'esistenza di un equivoco giuridico e politico creatosi e perdurato poi, fino alla fine della guerra, tra la Repubblica Sociale Italiana e il Reich. A norma del diritto internazionale e con richiamo specifico al regolamento concernente le leggi e i costumi di guerra su terra, approvato dalla Convenzione dell'Aia nel 1899 e reso esecutivo in Italia con regio decreto, per territori occupati intendesi territorio nemico, che necessità strategiche e contingenze inerenti alla condotta della guerra spingono a temporaneamente occupare. Vero che l'ordinanza del 10 settembre era stata emanata quando ancora non era costituita la Repubblica Sociale Italiana, ma quell'ordinamento e quella denominazione, quella classificazione di territorio occupato restò immutata anche dopo, in un assurdo giuridico che era corrispondente peraltro all'equivocità di relazioni internazionali tra due stati, uno di diritto il Reich, uno di fatto la Repubblica Sociale Italiana, che sono contemporaneamente alleati e nemici, occupando il primo il territorio del secondo. Il trattamento di fatto e di diritto imposto alle due zone d'operazione dell'Alpenvorland e del litorale adriatico era poi ulteriormente equivoco ed eccezionale, manifestamente anche in aperta violazione dell'articolo 43 del regolamento della Convenzione dell'Aia, che detta, cito, l'autorità del potere legale, essendo trapassata di fatto nelle mani dell'occupante, questo prenderà tutte le misure che da lui dipendono per ristabilire ed assicurare, nei limiti del possibile, l'ordine e la vita pubblici, e rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in vigore del paese. Su ciò naturalmente ritorneremo. Ora continuiamo con la domanda che ci siamo posti, e alla quale abbiamo risposto solo parzialmente finora: per quanto tempo, cioè, sia stata operante la rinuncia del Reich a rivendicazioni territoriali verso lo Stato italiano a sud delle Alpi. Il testamento politico non fu mai formalmente revocato e nessun atto di annessione dell'Alpenvorland, della zona delle Prealpi o del litorale adriatico, fu emanato dalla Germania dopo l'8 settembre 1943. In punto di diritto, la giurisprudenza italiana si è esercitata a lungo per qualche decennio su questi temi, in punto di diritto cioè è incontestabile che non ci sia mai stato un atto di annessione, come ha fatto rilevare il Consiglio di Stato, ad esempio, nel parere espresso nella stunanza generale dell'aprile del 1947, a due anni dalla fine della guerra, quando ancora erano in giudicato molteplici e numerose vertenze insorte a seguito del sovrapporsi nel territorio dell'Alpenvorland, ma che vale anche per l'Adriatisches Küstenland, di poteri residui della Repubblica Sociale Italiana, sovrapporsi di questi, di quelli delle autorità militari tedesche, del Reich e del Commissariato Generale della zona d'operazione. Cause civili e penali rimesse a sentenza o questioni comuni da definirsi con atti amministrativi e legislativi, il cui punto di riferimento era sostanzialmente sempre quello riguardante la domanda: queste due zone erano state annesse al RAI, sì o no? Che questa questione si sia trascinata tanto a lungo, forse per chi viene da fuori, può essere interessante ricordare che recentissimamente, con un atto legislativo, è stata risolta la questione dei trentini chiamati a prestare servizio militare in formazioni ero fiancheggiatrici dell'esercito tedesco o in corpi speciali istituiti localmente. Da questo angolo di angolazione, di osservazione e di giudizio, eminentemente giuridico, il ricorso a fissare un punto di diritto incontestabile diveniva necessario. E fu appunto quello che nessun atto formale di annessione vi era stato, secondo la pronuncia del Consiglio di Stato, che fu accolta successivamente anche dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni riunite, che però addolcì o alleggerì la rigidità di questa pronuncia, ammettendo che nella zona delle Prealpi non si era voluto escludere e non fu esclusa di fatto, cito, ogni potestà della Repubblica Sociale Italiana, dove quell'ogni vale quanto dire non tutte ma parte sì. Pur in carenza di un formale atto di annessione, nel giudizio storico hanno rilevanza anche altri atti formali anch'essi ed efficaci sul piano giuridico, che in coerenza con un disegno politico dei poteri che li posero in essere, configurano nel loro insieme un'annessione mascherata e progressiva, non giunta a compimento soltanto perché la guerra si concluse con la soccombenza del Reich. Vorrei chiarire e sottolineare che non è un processo alle intenzioni che si voglia istituire, benché anche gli indirizzi e le tendenze di uno Stato in politica estera, quando siano documentati, costituiscono un elemento di cui la storia, vero, deve tener conto. Ma è una verifica di se e quali provvedimenti nell'elezione e nel governo dell'Alper Vorland corrispondessero al puro e semplice regime di occupazione temporanea militare del territorio, secondo la Convenzione internazionale dell'AIA, o andassero al di là, configurando un'annessione di fatto. Tra il 15 luglio e il 10 settembre del 1943, le misure riguardanti il territorio italiano prese dal Reich sono da riconoscere inequivocabilmente come misure militari rivolte alla prosecuzione della guerra e alla necessità delle armate tedesche operanti sul fronte meridionale della penisola e distanza in essa. In quel periodo tuttavia prendono corpo, come si è già fatto cenno, le spinte rivendicazioniste di territori italiani posti a sud delle Alpi, specificamente del Südtirol, ma non del solo. C'è un poco la tendenza, si capisce anche specialmente noi qui localmente, a fissare gli occhi soltanto sul problema altoatesino, sul problema del Südtirolo, vero, specificatamente del Südtirolo, di Trieste ma anche di Trieste e dell'Istria. E non sono solo voci che vengono dall'opinione pubblica, ma sollecitazioni precise dei due gerarchi nazisti che saranno poi nominati commissari supremi nelle zone d'operazione dell'Alpen Vorland e del litorale adriatico. Anche qui è documentabile, è vero. Tuttavia, sino alle giornate del 10 settembre, il Führer riesce a far rispettare, anche nella cerchia più intima dei suoi collaboratori, il solenne impegno preso a Palazzo Venezia. Ma col giorno 11 si fa chiaro il nuovo corso della politica tedesca verso i territori italiani. Nel trasmettere l'ordinanza e una parte aggiuntiva chiamata il completamento, in cui sono comprese anche la nomina di Hofer e di Rainer a commissari supremi delle due zone d'operazioni, il ministro Lammers, capo della Reichskanzlei, comunica alle autorità militari e civili destinatarie che l'ordinanza deve restare segreta e che comunque ciò che importa è che non, cito, si dia l'impressione che si voglia intaccare la sovranità del governo italiano fascista che si stava in quei giorni formando. Non si prescrive di non intaccare la sovranità del nuovo Stato italiano in via di formazione, ma di non dare l'impressione di intaccarla. Più esplicito ancora il testo di un rapporto riservato del 18 ottobre, riassuntivo delle conversazioni intercorse tra il dottor Haag, presidente del Senato di Giustizia a Berlino, e il presidente della Corte d'Appello di Innsbruck, emesso da Berlino e contenente le direttive impartite all'amministrazione civile dell'Alten Vorland. Vi si legge testualmente che, cito, l'amministrazione civile all'interno mira a creare le premesse di una futura incorporazione del Tirolo nel Reich. Non solo, ma con riguardo all'intero territorio dell'Alpen Vorland, che comprendeva, come ben noto, le province di Bolzano, di Trento e di Belluno, vi si legge anche, cito ancora, che tutti i provvedimenti civili debbono essere rigorosamente mimetizzati e che Roma è del tutto esclusa dalla zona di operazione in senso legislativo e amministrativo. E che, continua ancora, per non suscitare inutili inquietudini, non sarà introdotta in un primo tempo la giustizia tedesca. All'osservazione che questi indirizzi e suggerimenti potevano rappresentare pareri e criteri personali di singoli, sì pur alti funzionari o politici, non si può non far rilevare che dalla metà di settembre in poi pronunce di tal genere sono comuni a molti, se non a tutti, militari e civili che avevano ruolo nella questione, tanto a Berlino quanto a Innsbruck. E così, del resto, e che fosse così, doveva prenderne atto lo stesso capo della Repubblica Sociale Italiana, Benito Mussolini. Fece pregare da suo figlio Vittorio, inviato a Berlino il 3 novembre del 1943, di evitare, cito testualmente, tutto ciò che presso il nemico o presso gli italiani potesse far nascere l'impressione, ritorno a questo termine, nascere l'impressione che il Duce avesse rinunciato a territori italiani. E è da notare che riferendosi, che Vittorio Mussolini nel colloquio non si riferisce soltanto al Sì Tirol, vero? E era un colloquio avvenuto al Ministero degli Esteri, il verbale è stato redatto da Stengracht, che non ricordo più che ruolo aveva al Ministero degli Esteri, Stengracht, che cos'era? Segretario di Stato. Sotto? Il segretario di Stato, sì, il ministro era Ribbentrop, sì, segretario di Stato, il verbale è stato redatto da Stengracht, con cui Vittorio Mussolini aveva avuto il colloquio. Però ci si riferisce non solo al Sì Tirolo, ma alla intera zona di operazione e sono citati i due capiluoghi di Trento e di Trieste. Il verbale del colloquio è quanto mai interessante in proposito ed esauriente e merita di essere conosciuto veramente nella sua interezza. Lo stato della questione era sostanzialmente dunque ammesso dall'una e dall'altra parte, e tutte e due si industriavano a dare l'impressione che la situazione non fosse quella che era. Ma di fronte all'opinione pubblica tedesca si evitò di lasciar pensare che non di annessione si trattasse. Era giudicato come una doccia fredda. Quando l'ambasciata a Berlino della Repubblica Sociale Italiana chiese ed insistette perché l'agenzia di stampa tedesca smentisse l'interpretazione data dalla Reuters di Ronda che le due zone di operazione erano state annesse al Reich, Fu autorizzata la trasmissione radiofonica di una nota ufficiosa corrispondente ai desiderata italiani, ma solo per l'Italia e per l'estero, non per l'interno del Reich. Dai Tagebücher di Goebbels conosciamo anche il giorno preciso in cui il Führer, superando infine le resistenze sue intime di lealtà alla parola data al Duce nel maggio del 38, addivenne al progetto, sollecitato dalla pubblica opinione e dalla cerchia dei suoi più vicini, di annettere a fine guerra il territorio delle due zone d'operazione. Il passo è ben noto. Sotto la data del 23 settembre, Goebbels scriveva: «Col Führer ho affrontato una questione seria e importante, domandandogli fin dove intenda espandere il territorio del Reich. Secondo la sua idea, noi dovremmo avanzare sino ai confini del Veneto e il Veneto stesso dovrebbe essere incluso nel Reich in forma autonoma. Anch'io considero una simile linea di frontiera come la sola proponibile e giusta». L'amministrazione delle due zone d'operazione fu finalizzata sin dall'inizio, seppur con la mimetizzazione dei provvedimenti, a preparare l'annessione finale. E qui riassumo per capi rapidissimamente un'analisi che di questi provvedimenti ho già a suo tempo fatto e pubblicato. Perché l'interrogativo al quale si deve rispondere è se quel disegno rimase allo stato di disegno per il momento in cui il Reich vittorioso avrebbe dettato le condizioni di pace, o se trovò attuazione concreta già nel periodo dal 10 settembre 43 alla finale disfatta, e dunque se si ebbe qualche cosa di concreto anche sul piano dei fatti, anche se la pronuncia formale di un'annessione non è mai intervenuta. Conviene qui forse ancora ricordare che l'Alpenvorland non era territorio ex nemico, conquistato con le armi contro uno Stato con cui era aperta la guerra, e che anche in questo caso, per le norme internazionali, l'occupante sarebbe stato facoltizzato a prendere tutte le misure necessarie per la propria sicurezza e per assicurare l'ordine e la vita pubblica, rispettando le leggi in vigore del Paese. Ecco, un'analisi rapidissima dei provvedimenti emanati dal Commissario Supremo dell'Alpenvorland dimostra, a mio avviso, che sul territorio, per delega della Führung del Reich, il Commissariato Supremo esercitò di fatto poteri sovrani, avendo sottratto tali poteri alla Repubblica Sociale Italiana. La prima punto è quello della sospensione della sovranità della Repubblica Sociale Italiana nell'Alpenvorland. Non solo con riferimento ai due documenti citati precedentemente, quello dell'Hager e del completamento dell'ordinanza, ma va ricordato che il 30 marzo del 1944 il Commissario Supremo indirizzava ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'ordine di soprassedere a prestare giuramento secondo la nuova formula della Repubblica Sociale Italiana, perché, cito testualmente, i diritti sovrani del governo italiano nella zona di operazione delle Prealpi sono attualmente sospesi. Secondo, c'è stata una sottrazione del territorio delle Prealpi alla libera disponibilità del governo di Mussolini anche di porvi la sede. Qui le cose sono un po', va bene, vero, complesse, perché se è comprensibile che ci fosse stato un rifiuto di porre la sede del governo della Repubblica Sociale Italiana nel Sudtirolo, per ovvi motivi intuibili, meno comprensibile è invece che si sia rifiutato di porre la sede del governo della Repubblica Sociale Italiana in zone che non avevano gli stessi problemi di conflitti etnici e nazionali come esisteva nel Tirolo. Poi, punto C, la sottrazione al governo della Repubblica Sociale Italiana del diritto di nomina dei prefetti, che nell'ordinamento giuridico italiano costituiscono le massime autorità periferiche dello Stato. In altro luogo ho parlato di una vera e propria guerra, vennero dei prefetti che si era stabilita tra Salò e Berlino. È evidente che, del resto era stato confermato nei mesi immediatamente precedenti, appena ci fu la caduta del regime fascista, il nuovo governo Badoglio provvide ad installare immediatamente dovunque nuovi prefetti e così tentò di fare il governo fascista immediatamente dopo l'8 settembre, vero, e in parte riuscì a nominare i capi delle province nel territorio occupato, non nelle due zone di operazioni dell'Alpenvorland e dell'Adriatisches Küstenland. E fu questa una delle questioni che ripetutamente l'ambasciata tedesca italiana a Berlino e anche nei rapporti diretti, nei colloqui diretti fra Mussolini e Rahn, che era il plenipotenziario del Reich in Italia per il territorio occupato, anche per le due zone d'operazione, e anche nello stesso colloquio di Vittorio Mussolini con Stalingrad, questa questione della nomina dei prefetti e della nomina dei capi delle province era sentita e indicata dallo stesso Mussolini come una limitazione del diritto di impero da parte del governo della Repubblica Sociale Italiana. Interessante poi è anche riferirsi, e sono vicino alla conclusione, all'esclusione dal territorio dell'Alpenvorland delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana e l'impedimento al reclutamento militare. Ma forse chiariscono meglio, e vorrei dire quasi definitivamente, le distanze che esiste tra un regime d'occupazione, secondo quanto è nel diritto internazionale vero accettato, e una annessione di fatto. Questa distanza che esiste è chiarita dal fatto che nella zona delle Prealpi furono assunti dei provvedimenti che non avevano nulla a che fare con quanto era previsto, cioè dalle norme internazionali, per la salvaguardia delle truppe esistenti, la vita, l'ordine e la vita ordinata e pacifica dei cittadini. Mi riferisco, per esempio, alla riforma delle circoscrizioni amministrative interne all'Alpenvorland, la modifica dei confini delle due province di Trento e di Bolzano, la modifica di circoscrizioni comunali. E più interessante ancora, e più illuminante ancora, è la modificazione dei territori di giurisdizioni di preture, tribunali e corti d'appello. Anche in questo settore furono introdotte riforme che non attengono direttamente alla salvaguardia delle truppe occupanti e al mantenimento dell'ordine e della vita civile. La modifica più rilevante fu introdotta con l'ordinanza del commissario supremo 6 novembre 43 numero 26, la sezione di corte d'appello di Trento, già dipendente dalla corte d'appello di Venezia, veniva eretta a corte d'appello autonoma con competenza giurisdizionale sui tribunali civili e penali di Bolzano, Trento, Rovereto e Belluno. Ulteriori ricorsi avverso le sentenze d'appello erano proponibili invece che alla Corte di Cassazione, che non aveva più sede a Roma ma era stata trasferita a Milano, erano proponibili dinanzi al Tribunale Speciale per la zona d'operazioni dell'Alpenvorland, il tribunale istituito a Bolzano e eretto in Bolzano con ordinanza del 6 novembre 43. Noi quando pensiamo al Tribunale Speciale di Bolzano pensiamo sempre ad un aspetto, vero, della sua attività, e invece bisogna pensare anche al fatto che in questa zona delle Prealpi erano stati costituiti tutti e tre i gradi di amministrazione della giustizia, il primo, il secondo d'appello, vero, e il terzo, vero, di ultimo appello, di Cassazione, per dirla così. Ci sarebbero poi anche altre questioni minori che taglio, e mi riferisco però ad una ancora significativa, un particolare che getta però luce sull'idea di permanenza dell'occupante nella zona delle Prealpi, permanenza sine die, davvero. Ci furono interventi anche nell'amministrazione scolastica, vero? La sostituzione di un provveditore, tra l'altro molto fascista, vero, con altro incaricato, e vabbè, questo poteva anche essere inteso, vero, come la ricerca di uno stato di tranquillità a tutela dell'occupante, ma più interessante è ancora che da parte dell'amministrazione dell'Alpenvorland vengono messi in progetto persino pubblicazioni di libri scolastici in lingua italiana, ai quali si prescrive di leggere la storia in piena libertà, purché non si facciano accenni all'irredentismo italiano di fine 800, di primo 900 e a Mazzini. Infine, un punto solo che andrà però, se verrà pubblicata, lo espliciterò maggiormente, un ultimo punto, la sostituzione del Reichskonkordat del 30 luglio 1933 al concordato italiano dell'11 febbraio 1929. In occasione della chiamata al servizio militare di studenti di teologia avviati a prendere la veste talare, c'è questa indicazione esplicita che nella zona delle Prealpi si intende applicare il concordato tra il Reich e il Vaticano del 33, vero, cioè il concordato tedesco, non il concordato italiano del 1929. La conclusione mi pare che quietamente possa essere questa: annessione di diritto dell'Alpenvorland al Reich non ci fu. L'avvio di una annessione di fatto è esistente, reale, documentato. La fine della guerra interrompe anche questo processo. Grazie. Prima delle altre conferenze propongo di entrare subito nella discussione. Chi vuole prendere la parola? Forse posso parlare prima. Lei ha parlato nell'inizio della sua conferenza della tradizione dei concetti di Lebensraum nella discussione in Germania, dal Friedrich Naumann a Hitler quasi. A Francoforte. La mia domanda è che veramente si trova la parola Lebensraum nella discussione sull'Italia? No. Credo di no, no. Perché no. Questo è no. Sempre... No, l'ho usata all'est. Io. Sì. L'ho usata io per intenderci, insomma. Ma è chiaro il concetto. In tutti i verbali dell'Assemblea di Francoforte, quando il problema in Italia c'era già la guerra tra il Piemonte e l'Austria e c'era già anche qualche tentativo rivolto verso Trieste, le tesi, che poi sono approvate, sì, meno che dall'estrema sinistra di Francoforte, approvate da tutti, sono quelle che questi territori, sì, soggetti alla sovranità degli Asburgo, costituiscono i territori di importanza strategica ed economica per tutto il mondo tedesco. E di qui è, va bene, vero, l'atteggiamento che assunse poi, va bene, vero, l'assemblea di Francoforte, ostile alla guerra, va bene, vero, italiana fra Piemonte e Austria, in difesa della conservazione di questi territori. Volevo dire questo, se sì, non mi sono spiegato bene, la ringrazio se adesso mi dà la possibilità di chiarire. Sì, ci sono altre domande. Sì. L'ho dichiarato in premessa, tenermi rigorosamente lontano da queste altre questioni che sono reali, obiettive, ma che dalle quali ho voluto prescindere quasi quasi per rendere più ascettica, ovvero, la mia relazione. Vabbè. Certo, è evidente, va bene, vero, la conclusione che si può trarre anche per questo argomento qui. Vabbè, se si tratta di quella interpretazione che mi pare coerente con le norme del diritto pubblico interno e internazionale, si può dare della occupazione di territori italiani da parte del Reich, la conclusione, la deduzione che se ne trae indubbiamente è quella che non si è trattato soltanto di una guerra civile, ma veramente di una guerra di liberazione dall'occupante straniero. Che poi per questo occupante straniero ci fossero, avvennero collaboratori, avvennero interni, anche questo è una verità, e allora dal primo piano di una guerra contro l'occupante straniero c'è anche il secondo piano di una guerra civile fra collaboratori e non collaboratori. Prego, non so se ho... Sì, c'è un'altra domanda, ma forse dipende anche dalla definizione della parola guerra civile. Sì. Forse lei può dire sempre il nome, perché ci siamo tutti qui, per cortesia. Sì. Sì. Sì. affermazioni di Hitler e la politica pangermanista portata avanti dall'ideologia nazista, quindi dalla necessità di sacrificare la questione altoatesina sull'altare dell'alleanza fra Hitler e Mussolini, e il fatto che invece il pangermanismo era uno degli obiettivi di fondo di questo regime. Giustamente siamo arrivati fino alla fine degli anni 30. A mio parere però ci sono degli elementi nel periodo compreso fra le opzioni e soprattutto fra la pubblicazione dei risultati delle opzioni e il 43 che sono significativi per valutare l'autorità di fatto dell'Italia e della Germania in Sud Tirolo, già prima dell'Alpenvorland. E non a caso il prefetto Mastro Mattei viene trasferito perché sbaglia clamorosamente l'ipotesi relativamente ai risultati delle opzioni. Lui pensava che solamente una minima parte dei sudtirolesi avrebbe optato per il Reich, mentre di fatto le opzioni ebbero mentre di fatto le opzioni ebbero questo risultato plebiscitario, no? Quindi Mastro Mattei perde il posto proprio per questo motivo, per la grave errore di valutazione politica. Il nuovo prefetto, che si chiama Agostino Podestà, è un prefetto che si chiama Podestà, arriva in Alto Adige e sembra limitare la propria azione politica alla città di Bolzano. L'impressione che ho avuto io, leggendo la documentazione presso l'Archivio Centrale dello Stato, è che si tratti quasi già di un commissario di liquidazione, diciamo così, un commissario che deve liquidare di fatto già l'Alto Adige. Sembra limitare la propria azione politica alla città di Bolzano, non si occupa più della provincia, del territorio, nel quale ormai i nazisti, a mio parere, già nel 40, 41, 42 la fanno già la padrone. Cioè i nazisti che già alla fine degli anni 30 avevano operato moltissimo nella fase di propaganda e avevano avuto un ruolo importantissimo poi nel 39. Addirittura abbiamo degli aneddoti interessanti, vengono organizzati degli uffici di reclutamento per l'esercito nazista in Val Pusteria e in Val Venosta, creando quindi la protesta poi delle autorità militari italiane. Questo già nel 40 vengono organizzati questi uffici di reclutamento, perché praticamente l'autorità nazista dice che, essendo ormai questi cittadini optanti per la Germania, vanno considerati già di fatto dei cittadini tedeschi. Il prefetto Podestà, comunque, opera anche nel campo culturale e favorisce promuove la pubblicazione di un'opera intitolata Alto Adige, alcuni documenti del passato, un'opera in 3 volumi, nella quale l'intelligenza italiana fascista dell'epoca cerca di riprendere alcune vecchie tesi di Tolomei riguardanti l'italianità del territorio. Ecco, io ho trovato documenti riguardanti le pressioni esercitate dalla borghesia sudtirolese nei confronti del governo centrale per cercare di bloccare la pubblicazione di questi 3 volumi, volumi che infatti poi vengono pubblicati poi a Bergamo nel 43 e hanno una diffusione abbastanza limitata. Però oltre a questi piccoli particolari, io trovo poi nel 42 altra documentazione che testimonia che l'ambasciatore germanico a Roma chiede espressamente la sostituzione di Podestà, considerato anche troppo attivo per difendere gli interessi italiani. Quindi l'autorità nazista già nel 42 riesce a chiedere la sostituzione di un prefetto. Il nuovo prefetto si chiama Froggio poi, che rimane in carica fino al 43. Podestà non viene poi allontanato dalla provincia, diventa il responsabile della commissione che deve occuparsi della liquidazione dei beni degli optanti. Ecco, però a mio parere, insomma, volevo dire, fra il 40, fra le opzioni e il 43, abbiamo già tutta una serie di episodi che dimostrano la progressiva perdita, diciamo così, di potere reale dello Stato italiano nel Sud Tirolo, soprattutto per quanto riguarda la provincia. Grazie. C'è un'altra domanda del collega Peterson. Sì, sì. ist das neben dieser automatischen Beistandsklausel das gewesen, was am stärksten Unruhe und Erregung und Empörung in der europäischen Öffentlichkeit ausgelöst hat. Aber die Intention, die hinter diesem Begriff des Lebensraumes oder des Spazios stand, war ja so. Ja, ich glaube, es ist besser. War ja Petersen, Deutsches Historisches Institut Rom. Die Intention, die dahinter stand bei den Vertragsschließenden, war ja auf der einen Seite das Mittelmeerimperium für das faschistische Italien, das große Osteuropa-Imperium in der hitlerschen Konzeption. Das Merkwürdige nun, dass hier 1943 dann dieser Begriff des Spazia Vitale plötzlich sich sozusagen an dem Grenzproblem Deutschland-Italien entzündet, also eine völlig andere Situation. Sì, ho già detto che ho adoperato il termine, ho già spiegato in che modo, che cosa volevo più di preciso significare. E vorrei, se mi permette, fare un'aggiunta all'intervento del dottor delle donne. Il punto di considerazione deve essere diverso tra interventi di natura riservata sul piano diplomatico perché uno Stato tolga di mezzo un funzionario o addirittura a volte un ministro, che può creare situazioni conflittuali tra uno Stato ed un altro. Voglio dire che non sono molti numerosi i casi, ma non è neppure eccezionale che la diplomazia di uno Stato intervenga presso un altro Stato amico o con cui è legato in alleanza perché eviti che rappresentanti ufficiali di questo secondo Stato si comportino o assumano degli atteggiamenti, degli indirizzi politici che possono creare delle difficoltà nei rapporti. Durante il Risorgimento abbiamo avuto addirittura un ministro che è poi stato esonerato dal governo italiano proprio perché la sua posizione non era certo la più idonea alle relazioni instaurate con la triplice alleanza. Altro è quando in un regime di occupazione da parte dell'occupante si sostituiscono funzionari specialmente di alto livello da parte dello Stato. Sono piani che vanno considerati diversamente, uno è sul piano diplomatico dei rapporti più o meno tesi, più o meno amichevoli, l'altro invece va considerato sul piano giuridico. Io non so se ho risposto sufficientemente all'amico Petersen, perché era un po' rivolto di là, ma non. Siamo d'accordo, no? E ho piacere che mi sia stata fatta questo rilievo, perché ho usato il termine di spazio vitale nel senso comune, cioè di uno spazio che ha interesse diretto anche per lo Stato esterno che lo considera, e su questo non c'è nessun dubbio. Ma basta pensare, ripeto, alla concezione della Mitteleuropa, ho citato il Naumann, che è un testo che è un programma di politica europea, è così chiaro, così limpido, che adesso però non vorrei dirlo, mi pare che con tutte le modifiche, le differenze di spiritualità che c'è, eccetera, la visione di come sarebbe stata strutturata questa Europa non differisca molto, se non per morbidezza di espressione, nella Mitteleuropa del 15 rispetto a quello che è poi l'Europa che sogna Hitler dopo il 33, o mi sbaglio? Così ho l'impressione. Come? Ho l'impressione. Grazie, professor Cosini. Ci sono altre domande? Se non, vorrei ringraziarla di nuovo anche per la discussione. Grazie. Nuove informazioni. Ah, ci vuole doch noch etwas da. Ja, vielleicht können wir es zurückstellen. Ja, gut. Also. Eigentlich mehr ein Hinweis als eine Frage. Ich glaube, dass das Konzept der Resistenza als nationale Befreiungsbewegung in eine ganz bestimmte ideologische Tradition hineingehört. Denn wir haben ein ganz ähnliches Verständnis des spanischen Bürgerkriegs auch als nationalen Befreiungskrieg von Seiten der kommunistischen Internationale, von Seiten der kommunistischen Parteien. Also die Vorstellung, dass Spanien beherrscht war bereits von den Achsenmächten, also von Deutschland und Hitler Deutschland und Mussolini Italien, und dass die Generale und speziell Franco dann nichts anderes waren als Marionetten, übertragen dann später auf die italienische Situation, natürlich Italien, Norditalien dominiert vom Nazifaschismus, Mussolini nur noch als Marionette Hitlers sozusagen. Yes. Vielen Dank, Herr Wörstorf. Ich glaube, das sind aber Fragen, die wir in der letzten Sitzung sowieso noch mal intensiv diskutieren müssen. Ich glaube nicht, dass Sie noch einmal jetzt antworten müssen, nicht oder wollen. No, no, no. Sì. Credo che sono, yeah, sono problemi che a mio avviso si possono così presentare, ma non per affrontarli, sì, bisogna avere il tempo, yeah, per fare un paragone tra quella che era la situazione della Spagna da allora e quella dell'Italia nel 43. Si può fare, ma va approfondita. Sì,